Il diario di Q. Venezia, 2 aprile 1551. Comincia la fronda. Antonio Ghisleri è a Bergamo. Il vescovo locale, Soranzo, è accusato di aver consentito la diffusione del beneficio di Cristo nella propria diocesi. È stata rinvenuta una copia del libello scomunicato nella sua biblioteca privata. Ghisleri lo torchierà finché non lo avrà visto cadere. Venezia. 21 aprile 1551. Inquisito anche il vescovo di Como. Nemmeno in quella diocesi il beneficio ha trovato ostacoli. Gli spirituali boccheggiano. Non si aspettavano un attacco diretto. Il domenicano Ghisleri è scatenato. Come si poteva supporre, Carafa ha atteso la ripresa del concilio a Trento per lanciare l'offensiva finale. Venezia, 16 maggio 1551. Cadono anche i vescovi di Aquileia e di Otranto. L'accusa è la stessa. Testa dopo testa, la strategia di Carafa non incontra ostacoli. Il vantaggio è doppio: pulizia degli avversari interni e cancellazione dei disegni dell'imperatore, che sulla ripresa del concilio puntava tutto. Venezia, 25 giugno 1551. Sotto i colpi del Domenicano, nuovo maglio della cristianità, cade il macigno più grande. Morone, vescovo di Modena, membro della congregazione del Santo Uffizio, fidato consigliere di Reginald Pole, una figura inattaccabile fino a pochi mesi fa. Tutti gli inquisiti da oggi in poi dovranno difendersi e tutti gli altri temere. La caduta di simili teste avverte che nessuno è più al sicuro. Chiunque sia stato sfiorato dal veleno del beneficio di Cristo non ne uscirà illeso. I frutti del mio lavoro stanno cadendo uno dopo l'altro. Dovrei essere già morto, portando sottoterra i segreti di un'operazione concepita 10 anni fa. Un'imprudenza, o forse un eccesso di sicurezza, o ancora la foga di annientare l'avversario. Mi resta ancora un po' di tempo, quello necessario, a piantare il crocefisso nel cuore dei giudei. Venezia, 10 luglio 1551. Nuova lettera dell'inquisitore delle Romagne. La presenza di un tedesco di nome Tiziano è stata segnalata nel borgo di Bagnacavallo, tra Imola e Ravenna. Venezia, 29 luglio 1551. In città, sulla bocca di tutti, c'è l'inquisizione dei cardinali spirituali. Il segnale non si presta a fraintendimenti. Con la messa sotto accusa del vescovo di Bergamo Soranzo, Roma ha piantato il suo vessillo dentro i confini della Serenissima e lo ha fatto tramite Ghisleri, uomo di Carafa, scavalcando l'inquisitore veneziano. Intanto, le mie lettere anonime all'inquisizione locale hanno portato i loro primi frutti. Sui giudei comincia ad aleggiare una certa diffidenza. Voci sul mantenimento delle vecchie pratiche religiose da parte dei marrani e sugli ambigui interessi delle maggiori famiglie giudee. La comunità mercantile di Venezia non avvalla queste voci. I suoi affari sono legati a doppio filo con i banchieri giudei. I processi in corso alimentano un'ostilità che sembra poter dilagare, ma serve una scintilla che faccia divampare l'incendio. Ho messo gli occhi su alcuni loschi levantini, che potrebbero tornare utili alle circostanze. Istruito a dovere, un turco che confessasse davanti alle autorità veneziane di essere una spia del sultano, al soldo di una potente famiglia giudea, provocherebbe l'attesa reazione. Venezia, 8 agosto 1551. L'inquisitore di Ferrara scrive per segnalare la presenza di Pietro Manelfi nella città estense. Venezia, 21 agosto 1551. Carafa si espone in prima persona. Di fronte al concilio ha accusato gli spirituali di inadempienza, di non aver mai fatto niente per impedire la diffusione del beneficio di Cristo. Sostiene che Paul e i suoi amici non hanno mai voluto rendersi conto della portata eretica del libro di Fontanini a causa dei loro ambigui intenti di riconciliazione con i luterani. Li sta accusando di essersi lasciati circuire dalle idee protestanti. L'imputazione è gravissima. Il vecchio teatino non era mai sceso in campo personalmente. Se gli spirituali non sapranno reagire in tempo, sono destinati a soccombere.